Europa 24. Un saluto da Gigi Donnelli. Dunque, 700 milioni, come avete sentito, la Commissione UE propone uno strumento d'assistenza d'emergenza per operazioni di soccorso umanitario. Si tratta di Euroeco, uno strumento da attivare in risposta alle crisi eccezionali o ai disastri all'interno dell'UE. Insomma, le crisi eccezionali ormai fanno parte di fatto della norma degli ultimi due anni. Uno strumento che, secondo la Commissione UE, permetterà una risposta mirata e veloce in un momento appunto in cui la crisi dei profughi in Europa ha raggiunto proporzioni senza precedenti. Il servizio. Resta esplosiva la situazione ai confini dell'Europa con la terza notte di sgomberi a Calais e la riapertura questa mattina per 4 ore del confine fra Grecia e Macedonia. Tutto questo mentre a Bruxelles la Commissione europea presenta la sua proposta per un regolamento per il sostegno finanziario d'emergenza per operazioni di soccorso umanitario all'interno dell'Unione. Ad accompagnarlo una comunicazione in cui si stima la necessità di stanziare 700 milioni di euro in 3 anni. 300 milioni nel 2016, 200 nel 2017 e 200 nel 2018 per affrontare i crescenti bisogni umanitari, si legge, nell'Unione di fronte alla crisi di profughi e migranti. Atene ha chiesto per sé 450 milioni. Intanto, secondo una bozza di documento della Commissione, anticipato dal Guardian, i paesi europei sono invitati a rimuovere ogni controllo alle frontiere interne per salvare Schengen e impedire la fine della zona di libero movimento. Il documento sarà pubblicato la vigilia del summit di emergenza UE-Turchia del 7 marzo. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Un altro tema che fa parte dell'attualità ormai da tempo ed è destinato a restarci almeno per tutta la primavera è quella della Brexit. Brexit che secondo il ministro dell'economia Piercarlo Padoan avrebbe enormi ripercussioni sia economicamente che politicamente per tutta l'Unione Europea. Così appunto Padoan in un'intervista a Bloomberg dove dice: in Europa abbiamo un proliferare di partiti anti-europei, a volte vediamo anche governi anti-europeisti che guadagnano potere. Con l'uscita del Regno Unito perderemo un beneficio di integrazione economica e finanziaria non solo per Londra ma per il resto dell'Europa. E ora parliamo invece di olio e Tunisia. Come sapete, ormai da alcuni mesi uno degli strumenti che l'Unione Europea ha deciso di utilizzare per sostenere l'economia tunisina, che fa i conti con una di fatto la prima linea del terrorismo islamista, in particolare dalla Libia, passa appunto per una serie di sostegni alla importazione nel mercato europeo dei prodotti come appunto l'olio, cosa che evidentemente crea dei problemi ai produttori nazionali. Questa mattina il ministro Martina ne ha parlato con Giovanni Minoli a Mixer 24. Insomma, ci facciamo del male del sole con i 70.000 tonnellate che arriveranno nei prossimi 2 anni? No, parla dell'olio tunisino, sì, in questo caso. Sì. Non dobbiamo farci del male, dobbiamo battagliare anche su questo fronte, lo stiamo facendo. Ma come ci si difende da questa invasione, al di là delle parole? Però stiamo attenti alle parole, non stiamo parlando appunto di invasione, perché se guardiamo i numeri non stiamo parlando di invasione. Certo, bisogna evitare scelte come queste. Noi abbiamo detto la nostra, abbiamo anche impegnato il Parlamento europeo, la Commissione, a modificare una parte di questa scelta. Dopodiché il tema vero è come si posiziona l'olio di qualità italiano, esatto, nel mercato globale. Proprio. Se guardiamo gli ultimi 10 anni, abbiamo avuto un'espansione, per fortuna, della nostra capillarità, della nostra presenza nel mondo con l'olio italiano di grandissimo significato. Bene, questo è tutto per l'appuntamento delle 14 con l'Europa. Noi ci risentiamo domani. Adesso naturalmente la linea va allo sport e a tutti i convocati. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.